7 aprile, giornata internazionale della salute. 7 aprile, un anno fa è stata riaperta simbolicamente per un giorno Villa Tiburtina. 7 aprile, scadono i 15 giorni entro i quali l'assessore D'Amato ha preso l'impegno di convocarci in un incontro congiunto con l'ASL Roma 2, il municipio e la regione. Rilanciamo la battaglia per la riapertura di Villa Tiburtina. Vi aspettiamo giovedì 7 aprile dalle 16 davanti Villa Tiburtina per una passeggiata rumorosa. Dalle 18 microfoni aperti. Ora più che mai è fondamentale la partecipazione di tutto il quartiere. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città.